Eccoci, ci accomodiamo e partiamo per questa partecipazione di Bologna città metropolitana alla notte e alla giornata internazionale dei musei, ricorrenza europea arrivata alla 19ª edizione. È un po' un esordio per Bologna. Io avevo sospetto che a Bologna qualcosa è cambiato e qua con Elena Di Gioia, delegata alla cultura per Bologna e città metropolitana, cerchiamo di saperne di più. Intanto buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno a te e a chi è in ascolto. Cominciamo la nostra conversazione proprio da come è nato questo avvicinamento. È nato proprio come fatto nuovo, come dicevi, di intanto aderire alla Notte Europea dei Musei e di aderirci insieme, ecco, questo è il fatto nuovo, Comune di Bologna e Città Metropolitana riuniti in un patto culturale che davvero stiamo siglando nella politica culturale di questo mandato, ecco, di questa amministrazione, anche di tanto impegno, e quindi significa che per la prima volta proponiamo un viaggio, ecco, in 14 comuni, in 17 musei che si aprono tra la città di Bologna e quelli dell'area metropolitana, e quindi diventa anche una grande galleria a cielo aperto, una galleria a museo aperto potremmo dire, in cui con orari notturni e serali straordinari mettersi appunto in viaggio anche insolito, dato proprio anche l'orario, all'interno delle collezioni e anche all'interno di un'offerta culturale appositamente pensata per questa notte, tra teatro, musica, visite guidate e tanto altro. È anche una bella protezione dal maltempo, se vogliamo. lo è. Certo, ci sono delle parole d'ordine per questo incontro, ho letto dei fili conduttori, sostenibilità, benessere. Sì, sono i fili con i quali diciamo stiamo guardando proprio anche alla gestione dei luoghi culturali, dei musei in particolare. Ci sarà peraltro proprio una giornata anche a maggio che intreccia proprio i temi, il 18 maggio, su musei, sostenibilità e benessere, quindi come luoghi di cura delle relazioni e attraverso la potenza dello sguardo quando incrocia le opere d'arte. Per la nostra città quali saranno le sedi che troveremo nella giornata specifica dell'imminente sabato? Allora, andremo alla scoperta poi molto anche in questa dimensione magica che la notte anche porta con sé, quindi molte tracce, anche indizi da cercare. A Bologna il Museo Archeologico, il Museo Medievale, il Museo del Patrimonio Industriale, e in un intreccio appunto con i tanti musei metropolitani che si aprono, e c'è un sito, anche una brochure che li unisce tutti quanti, e si va dalla Rocca Sforzesca di Imola alla Casa Museo Nena di Casalecchio di Reno, a Castenaso dove c'è il Museo della Civiltà Villanoviana, e a Bentivoglio con il Museo della Civiltà Contadina, insomma, e tanto altro ancora. Quindi eterogeneo l'incontro, le sedi che si estendono non solo nel prettamente comune di Bologna, e anche giovedì sera c'è un'apertura straordinaria per quanto riguarda questi motivi di incontro, il giovedì 18 mi pare. Sì, c'è, esatto, e c'è questo momento appunto di approfondimento su musei e sostenibilità e relazione con l'ambiente. Ci tengo a dire una cosa, che questa dimensione anche ci collega fortemente anche alla scena europea, alla scena internazionale, ecco, quindi immaginare di essere contemporaneamente dal nostro territorio metropolitano in linea con i musei aperti sul territorio nazionale, sul territorio, sulle migliaia, ecco, di musei che in Europa si aprono in questa notte appunto magica di incontro con l'arte, ecco, anche questo è un segno importante e che dà forza a quel lavoro corale, fortemente corale, dei tanti comuni metropolitani che si sono messi al lavoro per questa notte speciale dei musei. Grazie e buon lavoro. Grazie a te e a voi.